E partiamo dalla Tunisia. Tunisi è passata la prima notte di coprifuoco deciso dal presidente Ben Ali per cercare di bloccare le proteste che ormai vanno avanti da oltre 2 settimane. Le manifestazioni e gli scontri con le forze di sicurezza interessano però anche altri centri. Sentiamo il servizio. Farid Adri. Resta sempre alta la tensione in Tunisia, 14 morti nelle manifestazioni di ieri, 4 nella capitale. Il governo ha imposto il coprifuoco e la polizia si è ritirata da molte città per lasciare il posto all'esercito, ma la protesta non si è fermata, è imponente la manifestazione a Sfax con decine di migliaia di partecipanti. La protesta è arrivata anche alla capitale e l'esercito ha presidiato le sedi sensibili come TV e Banca Centrale. L'arrivo dei soldati a Bougherdan al confine con la Libia è stato accolto dagli applausi. A Biserta i soldati non sono intervenuti e la protesta si è svolta in forma pacifica. L'annuncio del governo di liberare tutti i manifestanti arrestati durante gli scontri, di rimuovere il ministro degli interni Rafik Kassem e di creare una commissione d'inchiesta sulle corruzioni non hanno convinto le opposizioni che adesso chiedono la testa dello stesso presidente Ben Ali, considerato il primo responsabile delle stragi. Oggi si terrà la riunione del Parlamento ampiamente controllato dal partito di Striano al governo. Linea allo studio.